24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta all'edizione di 24 ore in Europa di questo 11 ottobre 2012. In apertura il rapporto del Fondo Monetario Internazionale. La crisi dell'Eurozona costituisce la principale minaccia alla stabilità dell'intero sistema finanziario mondiale, oltre che un grave rischio per la crescita economica globale che è già in netto rallentamento. E a sottolinearlo il Fondo Monetario Internazionale, che nel suo rapporto Global Financial Stability raccomanda ai politici europei di accelerare i piani di integrazione finanziaria e fiscale, altrimenti la situazione andrebbe fuori controllo e costringerebbe le maggiori banche europee a ridurre il patrimonio e cedere attività fino a 4.500 miliardi di dollari, con una forte diminuzione nelle erogazioni di credito che avrebbe riflessi devastanti su investimenti e occupazione, e preoccupa la fuga di capitali dai paesi percepiti come deboli, 235 miliardi di euro fuori dall'Italia nell'ultimo anno e 296 miliardi per la Spagna. E nel presentare il report, José Viñas, uno dei direttori dell'FMI, ha detto che la fiducia sui mercati è ancora molto fragile e i rischi sono aumentati rispetto all'ultimo rapporto di aprile. Le iniziative della Banca Centrale Europea hanno agevolato la rimozione dei peggiori timori degli investitori, ma queste azioni necessiteranno, dice, di un seguito sia a livello nazionale sia a livello di area euro. In particolare il Fondo Monetario preme per un'accelerazione dei tempi di costituzione di un singolo meccanismo di supervisione e per una chiara roadmap verso una completa unione bancaria. E Viñas ha evidenziato che il nuovo Fondo Salva Stati e il programma di acquisto limitato di bond della BCE devono essere considerati dai mercati come reali e non virtuali e vanno accoppiati una condizionalità credibile. Il Fondo Monetario comunque non si sbilancia e consiglia singoli paesi in difficoltà. Tocca al governo spagnolo, insomma, decidere se chiedere l'aiuto della BCE o meno. Stefano Prer, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Tokyo. E ieri, per i listini del vecchio continente, è stata un'altra seduta con il segno meno. Ancora una volta ha prevalso la debolezza sulle borse europee, che hanno chiuso in calo per la terza seduta consecutiva. I timori per la crescita mondiale, i nodi da sciogliere in Europa e il risultato dell'asta dei titoli di Stato italiani, con i tassi che sono tornati a salire, ha incoraggiato un atteggiamento prudente. Così Milano ha chiuso il ribasso dello 0,41%, Parigi dello 0,5%, Londra dello 0,38% e Francoforte dello 0,41%. Come la vigilia, Madrid ha accusato la performance peggiore, calando dello 0,79%. A Milano sono andate male le banche, con le azioni di Banca Monte dei Paschi, che ha guidato i ribassi cedendo il 3,83%. Ha frenato anche Mediaset, meno 3,29%, a dispetto del successo della seconda serata di Celentano su Canale 5. I titoli sono tornati a patire i timori per l'andamento della raccolta pubblicitaria nei mesi venturi. Per contro, Impregilo ha vantato un progresso del 3,6%, festeggiando la revisione al rialzo dell'offerta per la quota delle autostrade brasiliane messa sul piatto dalla famiglia Almeida. Fiat ha chiuso sulla parità a dispetto della decisione di Moody's di tagliare il rating sul gruppo, decisione che Sergio Marchionne ha definito comprensibile anche se non riflette le condizioni finanziarie di Fiat. Infine sono andate bene le azioni del lusso, con le Ferragamo in progresso del 2,4%. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24. La Tobin Tax europea sulle transazioni finanziarie, che nascerà con una cooperazione iniziale di 11 paesi della zona dell'euro, non potrà essere aggirata facilmente perché si applicherà il principio della residenza, che varrà anche quando la transazione sarà fatta altrove. Lo ha rilevato la portavoce del commissario UE Algir Dassemeta. Gli 11 paesi che hanno dichiarato l'adesione alla cooperazione rafforzata, tra i quali l'Italia, rappresentano il 90% del PIL della zona euro. La proposta, presentata dalla Commissione UE un anno fa, prevedeva di introdurre una tassa dello 0,1% sulle operazioni riguardanti azioni e obbligazioni, escluso il mercato primario, e dello 0,01% per i contratti derivati. Il gettito annuo stimato, su scala UE, era di circa 57 miliardi di euro. Calcoli sugli introiti possibili generati dalle transazioni negli 11 paesi non sono ancora stati aggiornati, ma la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 20-30 miliardi di euro. I tempi per il lancio della nuova tassa potrebbero andare, nello scenario più ottimista, da fine 2013 al 2014. È arrivato ieri da Bruxelles il segnale che l'Unione Europea non chiude la porta all'ingresso di nuovi paesi, nonostante la crisi e le grandi sfide per il futuro. L'apertura è soprattutto in direzione dei Balcani occidentali e in particolare dell'Albania, che ha le carte in regola per diventare il prossimo paese candidato all'adesione, a patto che porti a termine alcune riforme. Sostanziali bocciature sono arrivate per Serbia, Turchia e Bosnia-Erzegovina, mentre è stato semaforo verde per un futuro accordo di associazione con il Kosovo, al proseguimento dei negoziati con il Montenegro e per l'ennesima volta le trattative con la Macedonia. Il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca ha lanciato a Bruxelles, durante un'audizione al Parlamento europeo, il sito web Open Coesione, che rende accessibile a chiunque tutte le informazioni relative a progetti finanziati dai fondi strutturali europei nelle regioni italiane, il loro stato di avanzamento e la spesa. Barca ha presentato il sito come un modello pioneristico di trasparenza e di open government, primo in Europa e secondo nel mondo solo agli Stati Uniti. Sergio Nava ha chiesto al ministro Barca se questa mossa possa fornire uno stimolo alle regioni italiane affinché comincino a usare i fondi strutturali dell'attuale programmazione. Al momento risultano spesi solo il 25% dei fondi europei. Sentiamo Barca. La strada principale per fare meglio sono le task force che abbiamo mandato nelle regioni, l'impegno fortissimo che ci hanno messo i presidenti, i target nazionali di spesa e il fatto che per una parte dei fondi noi abbiamo costruito un treno nuovo, che è il treno del piano azione e coesione. Detto ciò, il fatto che grazie a questo nostro portale qualunque giornalista, qualunque persona, qualunque cittadino possa capire cosa succede è un elemento di sprone che, come dire, di cui non si è ancora apprezzato in Italia completamente l'impatto. Si apprezzerà man mano che i giornalisti diranno: ma come mai c'è quella cosa? Ma perché è finanziato quel progetto? Ma perché quell'altro non sta andando avanti e sta andando indietro? Quindi è sicuramente questa iniziativa italiana unica per ora in Europa. Io mi aspetto e mi auguro che ce ne siano altre dai nostri amici che spesso ci spronano a essere più trasparenti, ma io più trasparente di noi in questo momento non ne vedo neanche uno in Europa. Mi auguro che questa iniziativa si diffonda in tutta Europa. L'opposizione alla pena di morte è uno dei valori più forti che unisce i cittadini dell'Unione Europea. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, in occasione della giornata mondiale contro la pena di morte. Quando le esecuzioni sono effettuate, ha spiegato Schulz, non vi è alcuna possibilità di rivedere una sentenza in un processo se emergono nuovi elementi. Neanche sistemi giudiziari più efficienti ed equi sono esenti da errori. Mi rammarico, ha indicato Schulz, del fatto che la Bielorussia, unico Stato europeo, ancora ricorre alla pena capitale. È un ulteriore esempio di quanto Lukashenko sia riuscito a isolare la Bielorussia dal resto della comunità internazionale. La buona notizia, ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo, è che più di 2/3 dei paesi al mondo hanno abolito la pena di morte. Il Parlamento europeo, ha ricordato Schulz, è stato e continuerà ad essere in prima linea nella lotta per l'abolizione della pena capitale in tutto il mondo. La casa automobilistica Toyota richiamerà milioni di auto in Europa e nel mondo per problemi di surriscaldamento dell'interruttore dei vetri elettrici. La campagna riguarderà anche 204.000 automobili vendute in Italia. Il colosso automobilistico Toyota ha annunciato il richiamo globale di circa 7 milioni e mezzo di autovetture. Il problema alla base è l'interruttore dei finestrini elettrici lato guidatore. Un utilizzo eccessivo lo potrebbe far surriscaldare, causando un incendio. La multinazionale nipponica fa sapere che si tratta di un richiamo preventivo. In Italia riguarda 204.000 unità tra i modelli Auris, Corolla, RAV4 e Yaris, prodotte tra settembre 2006 e dicembre 2008. L'azienda fa sapere che i possessori dei veicoli potenzialmente coinvolti in questa campagna saranno avvertiti quanto prima tramite una raccomandata. L'ennesima tegola. Nel 2010, infatti, Toyota aveva richiamato milioni di vetture per un problema al pedale dell'acceleratore, mentre negli Stati Uniti 4 milioni dell'ibrida Prius avevano seri problemi all'impianto frenante. Un danno d'immagine che contribuì a far perdere alla casa nipponica la leadership mondiale del mercato dell'auto. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura i dati sul mercato editoriale della Fiera di Francoforte. Il dato negativo era atteso. Già nel 2011 era comparso il segno meno 4,6% nel fatturato, quando invece per decenni la vendita di libri era stata in controtendenza, aumentava cioè nei periodi di crisi economica e sociale. Agli inizi del 2012 si è visto comparire un meno 12% del mercato a valore. Ora, guardando i primi 9 mesi dell'anno, secondo i dati Nielsen, si vede che a valore, ossia considerando gli incassi, le case editrici hanno perso l'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le copie vendute sono diminuite del 7%. In caduta libera i saggi, vanno bene invece come sempre i libri per bambini e ragazzi. L'altra brutta notizia è che diminuisce il numero dei lettori. Nel 2011 è calato del 2,7% e nella prima metà di quest'anno del 4%. Quindi possiamo dire che in Italia leggono 45 persone su 100 e la metà legge al massimo 3 libri l'anno. Siamo messi decisamente male rispetto ad altri paesi come la Francia e gli Stati Uniti, 7 lettori su 10, e la Spagna, 6 lettori su 10. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa.